Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e benvenuti a questa mise en espace raccolta fondi per il cortometraggio Alessia, che gireremo nel mese di marzo tra Mestre e Marghera. Abbiamo voluto aprire questa mise en espace con una poesia di Giuseppe Ungaretti, una poesia sulla guerra. Perché una poesia sulla guerra? Eppure siamo in un paese democratico in tempo di pace. Perché se in un paese democratico in tempo di pace muoiono più di 200 persone tenute in custodia cautelare, allora pensiamo che questo paese non sia né democratico né in tempo di pace. Quindi io e i miei valorosi compagni... Loris, cioè, avevi detto che non ci davamo una connotazione politica. Scusa. Ragazzi, compagni è un modo di dire. No. Vabbè, ragazzi, ragazzi, ci sono i radioascoltatori. Vi prego, restate qui, sistemo tutto io. No, ma adesso non so. Ci ha detto che sistema. Scusate, purtroppo quando si toccano certi argomenti gli attori non ci vogliono mettere la voce, i produttori non ci vogliono mettere i soldi, allora... e ecco chi mi tocca la... ecco, allora, come vi stavo dicendo, io e questi valorosi professionisti dello spettacolo, che prestano semplicemente la loro voce all'arte, prendono le distanze da tutto quello che diremo oggi in radio, grazie, e ci permettono di tornare indietro nel tempo e di analizzare tre tra le più dubbie morti di Stato, permeando dentro la scena come ci è stata raccontata dai verbali ufficiali delle forze dell'ordine. Quindi buon ascolto. Siamo alla fine degli anni 60. La guerra dello Stato in questo momento è rivolta ai gruppi sovversivi meglio definiti come anarchici. In particolar modo andiamo al 12 dicembre del 69, a Milano. Alle 16.37 la terra trema. 7 chili di tritolo fanno saltare in aria la Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Un disastro. 17 morti e 88 feriti. Per l'ufficio politico della Polizia di Milano non c'è dubbio. La matrice è anarchica. 84 persone vengono trattenute, tra cui... Salve a tutti, sono Giuseppe Pinelli, sono nato a Milano il 28 ottobre del 28, sono sposato con due figli, faccio il ferroviere e sono un anarchico. Dov'era il pomeriggio del 12 dicembre tra le 16 e le 17? Era a prendere la tredicesima. Queste domande, Pinelli, se le sentite fare ininterrottamente per 3 notti e 3 giorni, durante i quali gli è stato concesso solo un incontro con sua madre, la mattina del 15 dicembre. Pinelli, che cosa vi siete detti? Le ho detto di stare tranquilla, che sarei tornato a casa presto, visto che niente può emergere a mio carico. Pinelli a casa non ci tornerà mai. Ma proviamo a ricostruire le 3 versioni ufficiali, quelle avallate dalla magistratura. Siamo nell'ufficio del dottor Calabresi. Commissario aggiunto a Milano, definito il commissario CIA dagli ambienti della sinistra milanese. Lui in ufficio non c'è, ma ci sono. Un tenente dei carabinieri e 3 sottufficiali dell'ufficio politico, signore. L'atmosfera com'è? Tranquillo, signore. Anarchico Pinelli è un osso duro. È appena uscito il dottor Calabresi, decidiamo di fare una pausa. E decidiamo di offrirgli anche una bella sigaretta. A chi? All'anarchico Pinelli, signore. Benissimo, quindi siamo in un momento di pausa e nonostante sia la mezzanotte del 15 dicembre, la finestra è socchiusa. Eh sì, perché fa caldo, signore. Per far prendere una boccata d'aria. La boccata d'aria, è vero. Diciamo che dalla versione ufficiale Pinelli è vicino alla finestra, mentre i 3 sottufficiali ed il graduato sono più lontani, ignari del gesto che il Pinelli sta per compiere. Parlano animatamente di cose molto importanti. Ma io non mi ricordo di che cazzo stavamo parlando. Ma certo, si provano imbecille. Ora fa fin de parlà. Ah. Certo che è proprio una bella serata. Sì, tutto sta filando liscio come l'olio. Mentre i valorosi uomini dell'ufficio politico sono presi da queste intense discussioni, cito le loro testuali parole. L'anarchico Pinelli si è alzato dalla sedia per stirarsi, poi, con un balzo felino, si è buttato dalla finestra. Prego, Pinelli. Pinelli, Ho detto con un balzo felino. Hop! Boom! Oh, ma che è successo? Mi ha sentito qualcosa di strano? Hai sentito come è un po' alto? Oh, cazzo! Hanno messo una bomba in caserma! Ma sarà stata mica Pinelli! Ma dov'è Pinelli? Oh, la ragazza è chiusa, è scappato! Oh! Pinelli si è buttato! Nessuno confermava il suo alibi e si è suicidato! Allora è lui che ho sentito gridare: l'anarchia è finita! Stop! Ma questa versione viene poi ritrattata quando l'alibi dell'anarchico Pinelli viene confermato. Viene ritrattata con una seconda versione. Seconda versione Pinelli prima! Azione! Nella seconda versione i valorosi gendarmi erano pressappoco collocati nella stessa posizione della prima, giusto? Sì, sì, sì, sì, più o meno. Nessuno riusciva né a vedere né a sentire l'anarchico Pinelli. Assolutamente. Ah, ci voleva proprio una bella boccata d'aria. Ma veramente alla finestra. Ancora sta cazzo è finestra. Ma si scemo veramente. L'anarchico Pinelli, approfittando di questo breve momento di riposo, si alza dalla sedia per stirarsi. Poi lentamente si dirige alla finestra. E improvvisamente. Oh, ragazzi, ma chi sto? Aspetta, video io! Tieni! Uteng! Uteng! No, mi è scivolato! Ma perché si è buttato? Ma che cazzo ne sa, io? Manca era indagato, era qui per una conversazione amichevole! Eppure era così tranquillo! Non ce l'abbiamo fatta! Non ce l'abbiamo fatta! Questa è la versione, cioè, nonostante lo zelo dei quattro funzionari presenti in sala, l'anarchico Pinelli è riuscito a guadagnarsi il cortile di sotto. Stop! Ma qualcosa non convince e così i nostri intrepidi funzionari sono costretti a dare una terza versione dei fatti. Suicidio Pinelli versione 3, Chuck, prima! Azione! L'anarchico Pinelli, come nella seconda versione, si alza per stirarsi. Si incammina verso la finestra per prendere una boccata d'aria e salta sul davanzale. Ah sì, lo prendo io! No, pigli! No, lo prendo io! No! Per Dio! È sfuggito per un pelo, mi è rimasta la sua scarpa in mano. I quattro zelanti funzionari non ce la fanno a salvare l'anarchico Pinelli e al brigadiere Panessa resta solo una scarpa in mano. Il corpo dell'anarchico Pinelli fu trovato a 3 metri dal muro con tutte e due le scarpe ai piedi. Queste le fervide parole del questore di Milano 20 minuti dopo la tragedia. Pinelli era fortemente indiziato. Per me il suo è un gesto di autoaccusa. Vi giuro, non l'abbiamo ucciso noi. Quando saprete le prove che avevamo? Queste prove restano ancora un parto della fervida fantasia del dottor Guida. Il tenente Lograno, uno dei quattro inquisitori, è stato promosso a capitano. Perché la gente sappia, lettere dal carcere a parlare Paolo Braschi, un anarchico che scrive. Ma qui si è parlato tanto di finestre, si è usato quel vocabolo per soprannominare il commendator Calabresi come il questore finestra. Mi ricordo che l'ultimo giorno che fui interrogato dal questore finestra, negli uffici dove interrogarono Pinelli, non soddisfatto di avermi estorto ammissioni, grazie a insulti, violenze e minacce, mi fece sedere vicino alla finestra aperta. Tenendosi a distanza, lui e gli altri funzionari, mi provocò più volte chiedendomi di buttarmi di sotto. Questo ha messo a dura prova i miei nervi, scossi dalle percosse subite. La cosa sarebbe stata estremamente facile e nessuno avrebbe potuto salvarmi, vista la distanza. Mi ricordo una missione un po' speciale. speciale, Genova 2001, vertice mondiale. Sono un poliziotto del reparto celere, pronto alla guerra, ma più che una battaglia estrada sembra un carnevale. Tutti questi pacifisti del cazzo che si fanno chiamare popolo di Seattle, massa di straccioni con bandiere a covaleni che solo a guardarli in faccia già divento paonazzo. Sono 300.000 e vogliono cambiare. 19 luglio del 2001. Siamo a Genova, una città che ci appare blindata. Infatti da mesi le nostre forze dell'ordine vengono addestrate per contrastare i pericolosi gruppi sovversivi che tenteranno di mettere a fuoco e fiamme la città nel tentativo di boicottare il G8. Gruppi eversivi del calibro di Croce Rossa, Greenpeace, Arci, FIOM, CGL, UDS, o meglio definiti come Unione degli Studenti. E poi ancora niente proprio di meno che gli UDU, Unione degli Universitari, e poi casalinghe, pensionati, donne e bambini. Insomma, i più pericolosi nemici dello Stato, riuniti insieme a formare il pericoloso gruppo eversivo chiamato No! Nonostante questo pericolo incombente, l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in pieno stile fascista... In pieno stile italiano. Sì, in pieno stile italiano, costringe gli abitanti del centro ad adornare di fiori i loro balconi. In questo modo accoglie gli 8 uomini più potenti al mondo nella sua città, facendoli sentire a proprio agio. Come se li avesse invitati ad Arcore per un festino. Scusate, un lapsus freudiano, come se li avesse accolti ad Arcore per un brunch di lavoro. Torniamo a bomba? Sì. Da una parte abbiamo una città in festa, interamente ripulita e addobbata, chiusa ai comuni mortali e denominata... Zona rossa. E dall'altra... Una città in festa. Infatti, il 19 luglio i manifestanti iniziano la loro violenta protesta con canti e balli, sfilando per le strade della città con le mani pittate di bianco e alzate sopra la testa, prendendo così in contropiede le nostre forze dell'ordine che, su di giri, sono costretti a fare da spettatori a questo inaspettato spettacolo. Ma vediamo che cosa ne pensano due dei nostri agenti, che diventeranno molto importanti nel corso della nostra storia. Il valoroso vicequestore Adriano Lauro e l'altrettanto valoroso capitano Claudio Cappello, comandante della CCIR, la compagnia di contenimento e intervento risolutivo, i valorosi eco dei carabinieri. Allora, comandante, questi no global hanno tradito le aspettative? Non si lasci ingannare dalle apparenze, questo è solo un modo di celare le loro mere intenzioni. In che senso? Sì, lo scusi, quello che il mio collega intendeva dire... Ma che ne sai te di cosa intendevo dire io? Beh, ci hanno addestrato insieme. Forse hai ragione, sai. Sì. Posso continuare? Sì, certo, continua pure, dai. Ti ringrazio. Quello che il mio collega stava dicendo poc'anzi, che queste sono semplicemente delle tattiche usate da questi terroristi urbani che celano delle vere intenzioni di guerra. Io ho visto solo gente con chitarre e tamburi che cantava, ballava e si divertiva. Ma dai, è noto ormai nella storia che le tribù primitive, prima della guerra, eseguivano canti e balli propiziatori, no? Certo, basta prendere come esempio gli indiani d'America. Che tutti sanno che facevano delle danze che a tutti sembravano delle danze pacifiche, ma che poi nascondevano quegli attentati che hanno fatto arrossire l'esercito di Joe Wayne. No, mi scusi vicequestore Lauro, ma qui si sta facendo un po' di confusione. Assolutamente sì. Ed è proprio quello il perno di questa gente, la confusione appunto, ed è su di essa che questa gente ha costruito i disastri successi i giorni successivi e ha edificato quell'evento irreparabile tanto cercato. Sentendola parlare, sembrerebbe che i No Global abbiano cercato gli scontri mortali fin dall'inizio. E certo. Però sono tanti i dubbi, come quello dell'istigazione alla violenza da parte delle forze dell'ordine che provocarono i manifestanti... lanciando loro delle pietre. Thank you, dai. Le voglio ricordare che il processo si è già tenuto e che siamo usciti tutti promossi. Beh, tutti prosciolti, scusate. Sì, andiamo avanti. Sì, e andiamo esattamente al 20 luglio. Il 20 luglio la situazione cambia improvvisamente. Iniziano degli scontri furibondi tra manifestanti e forze dell'ordine. Genova si trasforma, come era stato preannunciato precedentemente dai nostri governatori, in campo di battaglia. Cosa ha innescato tutto questo? Tanti sono i dubbi. Troppe le versioni. La polizia parla di migliaia di manifestanti vestiti di nero ed incappucciati. I famosi black bloc, tanto aspettati dai gendarmi, che con armi rudimentali mettono a ferro e a fuoco la città e a repentaglio la vita dei cittadini e dei militari che cercano di proteggerli. Ahimè però, diversi sono i video che sono iniziati a circolare subito dopo il G8 e ci mostrano uno sparuto gruppetto di black bloc che, indisturbati davanti alle forze dell'ordine, si procurano le famigerate armi rudimentali. Mentre ad essere aggrediti e massacrati di botte erano i pacifisti manifestanti che cantavano e ballavano il giorno prima e che, purtroppo, in più di qualche occasione, venivano provocati dalle forze dell'ordine che lanciavano contro di loro lacrimogeni e a volte anche sassi. Oh, io vi invito ufficialmente a smetterla di fare supposizioni, ricordandovi che con la tecnologia di oggi è possibile far credere quello che si vuole. Mi scusi, capitano, ma con tutta la buona volontà io non riesco proprio a capire che cosa vuole dire. Ma è semplicissimo, quello che il mio valoroso collega vuole dire è che la tecnologia odierna ha fatto i passi da giganti, quindi non siamo costretti a ricreare dei modellini in scala come fu per lo storico film di Stanley Kubrick, Odissea nel deserto, ma possiamo contare sugli effetti speciali digitali, il green screen e quant'altro. Quindi, con questo bel riferimento cinematografico, lei mi sta dicendo che i manifestanti avrebbero usato degli effetti speciali per montare dei video contro le forze dell'ordine? Assolutamente no. Lei mi sta mettendo in bocca parole che io non ho mai detto. Io ho semplicemente espletato una frase che viene da anni e anni di servizio in prima linea, che dice mai fidarsi del nemico. Nemico. Ma se può dire niente. Nemico, ecco, finalmente è uscita fuori la parola giusta. Già, perché pochi giorni prima la questura di Genova tra le forze dell'ordine aveva diffuso un'informativa con tutte le armi in dotazione al nemico, i manifestanti, appunto. Capitano Cappello, potrebbe renderci partecipe dell'informativa? Certamente, signore. I manifestanti sono muniti di due punti, catapulte, lancio della frutta con dentro le lamette e lancio di palloncini con dentro sangue infetto. Riposo. Fatto sta che dopo la visita alle 9 di mattina dell'allora ministro degli interni Gianfranco Fini e di altri elementi di spicco di Alleanza Nazionale alla caserma di Forte San Giuliano, sede dei carabinieri e centrale operativa, i manifestanti che cantavano e ballavano sono stati considerati come il nemico. Genova si trasforma in campo di combattimento. Dappertutto le forze dell'ordine caricano i manifestanti che ci appaiono stupiti e sanguinanti in tante delle riprese video. Come sollevano molti dubbi, le fotografie scattate ai famigerati black bloc che li ritraggono prendere ordine dai loro capi, stranamente non abbigliati con i consueti capi neri con tanto di cappuccio, ma in giacca e cravatta. Chi erano quelle persone? E quelle fotografate qualche ora prima insieme al ministro Fini e alle forze dell'ordine? Sì, quelle vestite con abiti borghesi che ben si amalgamavano a manifestanti, uguali in tutto e per tutto. Anche con le stesse spranghe di ferro. Ma andiamo avanti. E precisamente andiamo a Piazza Limonda. 1-0. Palla al centro. Tutto bene? A voglia. Certo. Meglio così. Alle 15 Piazza Limonda ci appare tranquilla. Poi da via Ivrea lanciano dei lacrimogeni. Improvvisamente lo scenario cambia. Ci sono cariche per disperdere uno sparuto numero di manifestanti fino a bonificare la piazza, usando il gergo militare. Il battaglione dei CCIR, comandato dal capitano Cappello, si sta riposando e resterà in atteggiamento di riposo fino a poco prima delle 17. Quando il capo della piazza, ovvero il vicequestore Lauro, chiederà al capitano se la sua squadra ce la fa a fare una nuova carica. Nonostante quest'ultimo abbia fatto presente a Lauro che il contingente è stanco, ma usi obbedir tacendo, si procede ad attaccare in modo insensato e ingiustificato, addirittura anche di fianco il corteo di via Tolemaide. In tutto, a riprova della sua insensatezza, dura meno di un minuto e si conclude con una fuga precipitosa verso Piazza Limonda. Tuttavia quel minuto è sufficiente a vicequestore Lauro per esibirsi nel lancio di sassi verso i manifestanti, come lui stesso ha ammesso in tribunale. Ma sentiamo la sua dichiarazione. Vicequestore Lauro? Annaggia. Vicequestore Lauro, giura di dire tutta la verità. E io giuro. Vicequestore Lauro, ci racconti che cosa è successo quel 20 luglio del 2001? Ma quel 20 luglio del 2001 io mi trovavo in una traversa di via Tolemaide col mio battaglione quando improvvisamente ho visto migliaia e migliaia di manifestanti che ci correvano incontro con imbufaliti, brandendo armi rudimentali e alcuni di loro addirittura spingendo un secchione dell'immondizia, non a velocità elevatissima, ma a velocità che se comunque te prende non è roba che passa con poco, ecco. Ah, e lei che cosa ha fatto? Beh, non sarei un uomo se non le dicessi che de prima acchito ho avuto paura, però poi mi sono guardato dentro e ho detto: questo è il tuo lavoro. Ho preso tutto il coraggio e ho affrontato la situazione. Va bene, vice questore Lauro. C'è una domanda che volevo porle. E mi dica, sto qua apposta. C'è stato qualcuno dei suoi che ha tirato delle pietre contro i manifestanti? No. Quindi lei mi sta dicendo che è sicuro che nessuno dei suoi ha lanciato pietre? No, io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che io abbia visto qualcuno dei miei lanciare sassi contro i manifestanti, no. Prego, guardi questa fotografia, guardi. Lei riconosce quest'uomo che sta lanciando le pietre? E certo. E chi è? E beh, so io. Quel lancio di sassi provoca una reazione quasi ovvia da parte dei manifestanti. Le forze dell'ordine, come ci mostrano le tante immagini scattate, scappano verso Piazza Limonda. Un gendarme corre con un estintore in mano, mentre se ne intravede un altro a terra. Perché preciso questo? Perché la foto che ritrae il carabiniere correre con un estintore in mano cozzerà con le dichiarazioni giurate di una donna che possiede un distributore, che ha visto verso le 16 un ragazzo con un passamontagna e la canottiera bianca che si allontanava dalla porta del distributore con un estintore in mano. Quel giovane era Carlo Giuliani, che in base a testimonianze dirette stava mangiando la focaccia da un'altra parte, e comunque risulta impossibile che Carlo riuscisse a portarsi l'estintore a spasso per la città per più di un'ora e mezza, fino a quando durante la ritirata, e parliamo verso le 17:20-17:30, nella confusione di quegli attimi il reparto in fuga si lascia dietro i due fuoristrada che finiscono per intralciarsi a vicenda, restando bloccati nel mezzo della piazza. Uno dei due mezzi è circondato da decine di manifestanti che iniziano ad attaccare il veicolo con sassi e assi di legno, sfondando i finestrini e cercando di lanciare oggetti contro gli occupanti. La canica si trova all'interno del mezzo e racconta che in quel momento è preso dal panico, estrae la sua pistola d'ordinanza e minaccia i manifestanti che lo circondano. Dice di aver ripetuto il grido più volte. Quando si accorge che i manifestanti non si allontanano, spara due colpi. Il primo colpisce alla testa Carlo, che in quel momento si trova a pochi metri dal fuoristrada e tiene sopra la testa un estintore. Carlo cade a terra. Pochi istanti dopo l'autista riesce a liberare il mezzo, che passa sopra il corpo di Carlo per due volte. Una prima in retromarcia. Una seconda in direzione anteriore. Pochi minuti dopo carabinieri e polizia occupano nuovamente la piazza. Quando l'ambulanza arriva sul posto, Carlo è già morto. Fino a questo punto il resoconto dei fatti sembra chiaro. Un'operazione mal pianificata mette alcuni carabinieri in una situazione estremamente complicata e nel panico uno di loro apre il fuoco causando la morte di un ragazzo. È una ricostruzione su cui le parti sembrano essere quasi tutte d'accordo. Anche se alcuni membri del movimento No Global sostengono che quella di Piazza Limonda sia stata una trappola, cioè un'operazione pianificata dalla polizia. A 15 anni di distanza rimangono però alcuni dettagli poco chiari, tra cui due particolarmente importanti. Gli agenti sul posto tentarono un goffo depistaggio delle indagini? E come venne ferito esattamente Carlo Giuliani? L'autopsia rivelò una profonda ferita al cranio di Carlo, probabilmente provocata da un sasso. Ad avvalorare la tesi che a fracassare il cranio di Carlo siano stati gli stessi gendarmi, c'è la corsa, durata poche decine di metri, che il vicequestore Lauro fece verso un manifestante per depistare le indagini. Il tutto al grido di: lo hai ucciso tu, bastardo, tu l'hai ucciso col tuo sasso. Ma perché vicequestore, se pensava che quel ragazzo fosse l'assassino di Carlo, l'ha lasciato andare? Ma io quello che posso dire è che io in realtà non ho lasciato andare nessuno, ma purtroppo sono state le gambe a lasciare andare me. Infatti, per colpa di quel caldo infernale, ho dimenticato di prendere i sali minerali, mi sono presi i granfi ai polpacci. Ma cosa sta dicendo? Perché non è possibile. Andreaga si prendevano sempre e lui era costretto a mangiare una, due, per tre banane per integrare il potassio. Andiamo avanti. Il dubbio più grande viene dall'entità del foro riportato nella testa del povero Carlo. Infatti, il piccolo foro non coincide affatto con il calibro 9 mm della pistola di Placanica, bensì sarebbe più congruo ad una pistola calibro 22, magari silenziata, data in dotazione ad un tiratore più esperto, magari graduato, e non ad un appuntato di leva come Placanica. Ma queste sono solo alcune delle note discordanti di tutte le versioni ufficiali. Fatto è che uno Stato che dovrebbe tutelare i suoi cittadini, davanti alle manifestazioni di disaccordo con le decine dei suoi governanti, risponde con una cruenta violenza, fino ad uccidere un suo figlio appena maggiorenne. E per i servitori dello Stato, per gli artefici di questa mattanza? Anche qui, chi ha preferito ubbidire agli ordini, anestetizzando la propria anima e andando contro il proprio istinto di protezione della propria razza ed in particolare dei propri cuccioli, ha ottenuto le sue dubbie soddisfazioni. Come il vicequestore Lauro, promosso dirigente del commissariato Prati e nuovo responsabile del GOS, Gruppo Operativo Sicurezza della Capitale. Ferrara. Ore? Tra le 5 e le 6 della domenica mattina del 25 settembre del 2005. Chi? Federico Aldrovandi. Dopo aver trascorso una serata al locale Link di Bologna, si fa lasciare in via Ippodromo per proseguire verso casa a piedi. Secondo le testimonianze dei suoi amici, avrebbe ingerito delle piccole quantità di sostanze stupefacenti e di alcol, ma comunque appare tranquillo. Da quella parte passa una pattuglia della polizia, Alfa 3, con dentro due poliziotti, Enzo Pontani e Luca Pollastri. Ed ecco il nostro valoroso Luca Pollastri. Salve Luca, ci puoi raccontare che cosa è successo quella notte? Sì, quella notte ero di pattuglia con il mio collega Enzo Pontani, per l'appunto, quando mi hanno chiamato perché una signora aveva avvertito il pronto intervento che in via Ippodromo si sentiva un uomo che urlava. Un uomo che urlava? Ma sì, quando siamo arrivati abbiamo trovato questo ragazzone alto, 1,80 m. Un ragazzone alto, sì? Ma sì, con gli occhi iniettati di sangue, che praticava mosse di karate e che riusciva in un secondo a saltare sul tettino della macchina. Addirittura? Ecco. Ma sì, e ci ha messo in grave difficoltà, quindi io e il mio collega abbiamo dovuto chiamare rinforzi, appunto. Proprio così, la volante Alfa 3 chiama in rinforzo la volante Alfa 2 con a bordo Paolo Forlani e Monica Segatto. Lo scontro tra i quattro poliziotti e Jackie Chan, scusate, Federico Aldrovandi, è furibondo. E nonostante la conoscenza di molte mosse mortali legate al karate, ad avere la peggio è proprio il giovane, che muore per asfissia alle ore 6 del mattino. Anche per i quattro poliziotti il bilancio è tragico. Durante lo scontro hanno perso la vita due dei loro quattro manganelli. Spezzati, come hanno dichiarato nei verbali dei calci di Federico. Per ora i genitori provano a telefonare al proprio figlio, che ancora non è tornato a casa. Provano prima con il cellulare di Patrizia, registrato sotto il nome di mamma, ma nessuno risponde. Poi provano con quello del papà, registrato però sotto il nome di Lino. Qui risponde un ispettore della polizia che, quando scopre che è il papà di Federico, inventa una scusa. Abbiamo trovato il telefonino di Federico su una panchina e stiamo facendo accertamenti. Sono le 8 della mattina. Due ore dopo la sua morte, il suo corpo è ancora scoperto sotto il sole e senza lenzuolo. Il suo telefono continua a squillare. I suoi genitori chiamano ininterrottamente l'ospedale e la questura. Il suo fratellino Stefano parte con la bicicletta a cercarlo. Solo il caso vuole che non passi per via Ippodromo. Cinque ore dopo, i genitori vengono avvertiti della morte del proprio figlio. Qui entra in gioco un personaggio molto importante per la nostra storia. È Nicolò Solito, ispettore della Digos, intimo amico della famiglia Drovandi, che dopo aver visto il cadavere di Federico si precipita a casa loro per dare la brutta notizia. Ma che cosa ha detto Ispettore Solito al papà di Federico? Ma ho raccontato la versione dei miei colleghi, che dicevano che Federico sembrava un indemoniato che saltava sul cofano e sul tetto della macchina e che quando è arrivato il 118 è collassato a terra, ecco. Poi ho anche aggiunto che come poliziotto mi sembrava che l'intervento dei miei colleghi fosse stato un intervento corretto, però come genitore ho consigliato loro di sentire un perito ed un avvocato e ho dato il nome dell'avvocato Anselmo, ecco. L'incipit lanciato da Solito si rivelerà fondamentale per l'apertura dell'inchiesta. A riempire i vuoti degli atti iniziali dell'inchiesta ufficiale. A colmare le omissioni. E a svelare le falsità ci penseranno, oltre al già citato avvocato Anselmo, i suoi colleghi Riccardo Venturi, Beniamino Del Mercato e Sandro Gamberini. Loro infatti l'idea di pubblicare sui giornali la foto di Federico morto all'obitorio, che ce lo mostra con il viso pieno di lividi. Stranamente, i più reticenti a pubblicare questa foto sono proprio i media, mentre per i genitori, gli amici e tutti quelli che chiedono verità, questa immagine diventerà la loro icona di battaglia. E magicamente una città intera inizia a chiedere verità per Federico, con lo slogan "Verità per Aldro", sui blog, in tribunale, per le strade e addirittura allo stadio. Inutili le minacce delle forze dell'ordine, che subito convocano gli amici di Federico e li accusano di aver scaricato il loro amico su una panchina di via Ippodromo mentre era in overdose. Ma a proposito, sentiamo il questore Graziano Elio. Salve questore Elio, tante sono state le accuse alle forze dell'ordine. Gli amici di Federico hanno parlato di essere stati additati come tossicodipendenti e accusati di omissioni di soccorso ai danni del loro amico. Ecco, lei che cosa ci può dire in proposito? Ma no, che cosa vuole che le dica? Guardi, è normale a quell'età. Sì, insomma, tutti i ragazzi a quell'età, chi più e chi meno, fanno quelle cose, ecco. E quello che è successo secondo noi e le nostre indagini è che quella sera il Federico si è sentito male a causa di un mix letale e i suoi compagnucci per vergogna non l'hanno portato in ospedale perché non si volevano far vedere così. Ma così come? Così. Sì, dica pure. Drogati. Allora è vero che li avete additati come drogati e che avete minacciato di denunciarli per omissione di soccorso? Ma no, non tantissimo, ecco, forse un pochino, ma non è importante questo, ecco. Anzi, Ma a me mi sembra, scusate, mi sembra molto importante per la ricostruzione dei fatti, perché se Federico era stato scaricato in overdose su una panchina, com'è possibile che si sia riuscito ad alzare e a scagliare contro le volanti della polizia? Ma le sto dicendo che non è importante questo, per le indagini non è assolutamente rilevante, anzi è importante quello che io ho detto qualche giorno dopo ai suoi genitori convocandoli in caserma. Cioè? Che i ragazzi delle forze dell'ordine sono andati al soccorrere Federico con grande generosità e ecco, con grande generosità loro non hanno denunciato il fatto nonostante si siano fatti refertare e con grande generosità loro non chiederanno i danni alla sua famiglia, ecco, perché hanno capito che comunque potrebbe succedere a tutti, anche alle migliori famiglie, di avere un figlio così. Cosa? Un figlio così. Così? Drogato. Questo è quello che la famiglia Aldrovandi si è sentita dire dopo la morte del figlio. Ma le minacce, anche se celate, del questore Graziano Elio non generano l'effetto voluto. Anzi, danno alla famiglia Aldrovandi la forza di cercare a tutti i costi la verità. Si dispone l'autopsia e si apre un'inchiesta. Titolare il pubblico ministero Maria Emanuela Guerra. Le indagini invece sono affidate dal procuratore capo Severino Messina alla polizia giudiziaria. Ufficio nel quale lavora Pietro Angeletti, che è legato sentimentalmente alla poliziotta che fa parte di una delle due volanti che quella mattina sono intervenute per soccorrere Federico. In verità però le indagini la polizia le ha iniziate molto prima, esattamente qualche minuto dopo la morte di Federico. Ma sentiamo cosa ci dice in proposito proprio lui, l'agente di polizia Pietro Angeletti. Moshe, subito dopo la morte dell'Aldrovandi, siamo andati a bussare casa per casa chiedendo alla gente se potevamo affacciarci ai loro balconi, e sì, insomma, per verificare se qualcuno aveva visto qualche cosa, ecco. Scusi Angeletti, ma che cosa doveva aver visto la gente lì intorno, se la versione ufficiale dice che Federico era in overdose e che poi improvvisamente è saltato su come un pazzo ed ha iniziato ad aggredire le forze dell'ordine con calci e pugni? Moshe, insomma, volevamo capire se qualcuno aveva visto chi ha ridotto l'Aldrovandi in quello stato con la droga, insomma. Ma le forze dell'ordine non sono le uniche a suonare casa per casa. Infatti, a cercare la verità tra le omertose mura domestiche di via dell'Ippodromo è anche il comitato Verità per Aldro, capitanato dai suoi legali, che coraggiosamente setacciano casa per casa in cerca di risposte. E quando vede che la gente non parla perché ha paura, attaccano un cartello provocatorio nella via e la ribattezzano con il nome di Zona del Silenzio. Messina chiude la sua indagine senza aspettare neanche l'esito dell'autopsia, con un verbale scritto a quattro mani, insieme agli agenti intervenuti quella sera, in modo che le versioni combacino perfettamente. E quando ormai l'archiviazione del caso Aldrovandi sembra vicina, Patrizia apre un blog, dove posta la foto del figlio sfigurato e dove in una lettera aperta chiede verità per Federico. La mossa si rileva quella vincente. Il blog diventa uno dei più cliccati del web. Anche i giornali e i telegiornali, che fino a quel momento erano stati reticenti ad occuparsi del caso, sono costretti a tornare sui propri passi e ad ammettere finalmente e pubblicamente che il ragazzo è stato picchiato. E finalmente, il 14 gennaio, al blog arriva una lettera. Mia madre si è svegliata verso le 4:30, verso le 5:30, perché aveva sentito le urla di un ragazzo. Era riuscita solo a sentire bene queste frasi. Basta, smettetela. Basta, vi prego. Suppongo sia stata la voce di Federico, che supplicava gli agenti di smettere. Ma di smettere di fare cosa? Pensavo ci fossero altre testimonianze, ma in realtà non si è fatto avanti nessuno. È impossibile che in una via come la nostra nessuno abbia visto niente. Domani mattina chiederò a mia madre se è disposta a raccontare quello che ha visto. Quella lettera apre il primo squarcio alla Zona del Silenzio. E per la prima volta, in un'inchiesta parlamentare, l'allora ministro Giovanardi afferma che le forze dell'ordine, per placare il ragazzo, erano state costrette a tirare fuori i manganelli, due dei quali si erano rotti. Ma perché nei verbali non erano stati menzionati? Il muro di gomma inizia piano piano a sgretolarsi. Specie quando una perizia medica dichiara le 10 contusioni al corpo di Federico compatibili con le lesioni che possono essere provocate da un manganello. Da questo momento in poi inizia una lunga battaglia legale basata sulle perizie. I reparti sono due. Quello rilasciato dai medici legali della polizia, che dicono che le ferite esterne sul corpo di Federico non c'entrano niente con la morte causata da overdose. E quella dei medici incaricati dalla famiglia Aldrovandi, che invece decretano che Federico è morto per soffocamento da schiacciamento del torace. Per l'esattezza, i poliziotti hanno ammanettato Federico con i polsi dietro la schiena, salendogli con le ginocchia sul dorso. Quest'ultima versione c'entra poco con la morte per droga, anzi ci descrive un quadro di violenza gratuita e l'incapacità da parte delle forze dell'ordine di gestire una situazione a detta loro pericolosa. Inizia una durissima guerra mediatica. Liberazione scrive: la mamma mostra le foto di Federico morto dopo il fermo di polizia. I segni delle botte sono evidentissimi. Guardate come hanno ridotto mio figlio. Altro che morte per overdose. Morì per droga, non per le botte. Il caso del ragazzo deceduto durante l'arresto, la perizia del PM scagiona la polizia. Corriere della Sera. Sempre Liberazione. Ferrara. Parla la mamma di Federico Aldrovandi. Un agente gli schiacciò la schiena impedendogli di respirare. Mi hanno mentito, non posso più perdonarli. La Stampa. Troppo sciacallaggio. Gianni Tonelli, segretario del sindacato della polizia, difende i suoi colleghi intervenuti a via Ippodromo e lancia accuse a largo raggio agli amici del ragazzo che lo hanno abbandonato. Questa società spesso non ci merita. Il Resto del Carlino. E finalmente, il 14 marzo del 2006, nasce la vera inchiesta giudiziaria. Emanuela Guerra passa il testimone per motivi di famiglia al pubblico ministero Nicola Proto. I quattro agenti vengono iscritti al registro degli indagati. Avviso di garanzia per omicidio preterintenzionale. E finalmente, per la prima volta, quattro poliziotti siedono sul banco degli imputati. Il 7 aprile Enzo Pontani, Luca Pollastri, Monica Segatto e Paolo Forlani si avvalgono della facoltà di non rispondere. Tante altre persone però hanno iniziato a parlare. Anche se l'unica testimonianza diretta viene da una cittadina camerunense in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. I poliziotti continuavano a picchiarlo. Quando era per terra, tutti con bastoni per picchiarlo, un poliziotto gli mette mani qua, sui capelli, mette per terra e io a quel punto mi metto all'angolo del balcone. E che cosa vede? Il ragazzo a terra con i poliziotti sopra. E dov'era la poliziotta? Sui piedi. E l'altro poliziotto? Sulle cosce. E l'altro poliziotto ancora? Sul corpo, tutti picchiavano il ragazzo con bastoni. Anche il poliziotto in piedi ogni tanto si avvicinava al ragazzo e lo picchiava con bastoni. Da questo momento in poi il processo prende una nuova direzione. Grazie alla disposizione del pubblico ministero si riesce ad accedere alle registrazioni delle forze dell'ordine di quella maledetta sera, dove emerge il depistaggio da parte del centralino della polizia che erroneamente continuava a comunicare che il pazzo di via Ippodromo, di circa 30 anni, vestito da centro sociale e tatuato, era il timbro della discoteca dove era stato Federico quella notte, si stava spaccando la testa contro un palo. Ma sentiamo le registrazioni ufficiali di quella notte, quelle tra la polizia e i carabinieri, che subito fanno saltare all'occhio che è successo qualcosa di strano. Oh, ma come va? Ma stanno ancora tutti a via Ippodromo? Boh, per forza, per forza. Oh, ma sei capito che cazzo è successo? No, non si è capito un cazzo. Loro dicono che c'è stata una violenta colluttazione. Comunque, voi le registrazioni che sbatteva la testa ce le avete? Sì, sì, abbiamo le registrazioni dalla ragazza che diceva che sbatteva la testa. Ecco, l'importante è che non vadano di mezzo i colleghi. I manganelli spariscono. I segni sulle auto non vengono mai esaminati. Le relazioni sull'accaduto vengono fatte dagli stessi agenti. Il processo dura diversi anni, in cui affiorano false testimonianze, omissioni di verbali, depistaggi nelle indagini. Ma il crollo definitivo del muro di gomma, innescato dalle testimonianze dei cittadini, crea una reazione a catena. E finalmente una perizia medica, affidata ad uno dei più grandi professionisti al mondo di morti improvvise per arresto cardiaco, il dottor Gaetano Tiene, rivela che il cuore di Federico presenta una macchia scura che sicuramente ne ha causato la morte. Questa macchia scura può essere causata solamente da un colpo violento al torace. E ritiene addirittura clamoroso il verbale stilato dai colleghi incaricati dai legali della polizia. Il 19 giugno del 2009 i quattro agenti di polizia vengono condannati a 3 anni e 8 mesi. Subito dopo viene aperto un procedimento chiamato Aldrovandi bis, dove vengono condannati per depistaggio ed intralcio alle indagini i poliziotti Paolo Marino, Marcello Bulgarelli, Marco Pirani, Luca Casoni. Per la prima volta un abuso di potere non viene lasciato passare liscio. Grazie a Patrizia, che con il suo amore è riuscita a guardare oltre. Oltre il dolore. Oltre la rabbia. Oltre la vergogna. È proprio il suo guardare oltre che le ha permesso di incrociare lo sguardo amico di tutti i cittadini della sua città. Che uniti dal dolore della perdita di un figlio di questa piccola cittadina del nord Italia, strappato alla vita a suon di manganellate, hanno trovato il coraggio di alzare la voce e gridare verità per Aldro. In questa situazione i testimoni del pestaggio hanno trovato la protezione che ha permesso loro di alzare il dito e dire: sono stati loro, vostro onore. Io li ho visti. Adempiendo così al loro dovere di cittadini. Perché essere cittadini consiste in uno sforzo maggiore del solo respirare. Ci sono cose che nessuno ti dirà. Ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua. Nato e morto qua. Nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia. Pistole e macchine. In Italia. Machiavelli e Foscolo. In Italia. I campioni del mondo.